In prima pagina dell'ultimo numero di Milano in Comune, il bimestrale di informazione ed autoesaltazione del Comune di Milano, un periodico che su di me esercita, come suppongo abbiate capito, un fascino irresistibile, il sindaco Albertini trova modo di raccontare ai cari concittadini, cioè a noi, un episodietto edificante. Si trovava mesi fa per lavoro, dice lui, in un paese del nord Europa e gli è capitato di vedere, pensate un po', un bambino che raccoglieva una buccia di banana dalla strada per buttarla nel cestino della spazzatura. La cosa lo ha colpito in modo particolare, come un esempio di quel profondo senso civico che caratterizza molti paesi europei, quel senso civico che solo fra chissà quanto diventerà parte del nostro patrimonio genetico. La cura e l'interesse che noi milanesi serviamo per lo spazio pubblico, inteso nella sua accezione più ampia, scrive il sindaco, risulta infatti minima se paragonata con quella che serviamo per i nostri spazi privati. In altri paesi accade il contrario. L'ambiente pubblico, proprio perché condiviso da tutti, è ritenuto il primo segno, la prima manifestazione della propria civiltà. Certo, qualche progresso in materia quegli zozzoni di milanesi l'hanno compiuto e Albertini approfitta dell'occasione per ringraziarli dell'immenso sforzo sostenuto per rendere la raccolta differenziata un successo e vanto della nostra città. Ma ce ne vorrà del tempo prima che tutti capiscano e facciano prossima la massima di Terenzio, per cui proximus sum egum et mihi, io stesso sono il mio prossimo, e costruiscano noi e lui insieme quel senso civico che farà loro meritare il titolo di capitale morale del nostro paese e di civilissima capitale d'Europa. Boh. Apprezziamo una lezione impartita con tanto garbo e non staremo a chiedere ad Albertini perché mai si sia spinto per lavoro in Nord Europa, quando il suo lavoro dovrebbe essere quello di fare il sindaco qui a Milano. Forse ci è andato a studiare come quei paesi, tradizionalmente rispettosi dei diritti sindacali, gestiscano le vertenze con i pubblici dipendenti. Non gli faremo neanche osservare che quanto a senso civico la città che ha visitato va considerata perlomeno a somma zero. Visto che se un bambino ha trovato per terra una buccia di banana da riporre, qualcun altro, bambino o adulto, deve avercela buttata. E forse sarà stato un milanese di passaggio. D'altronde, nei paesi nordici c'è sempre qualcuno che raccoglie qualcosa da terra. Una storiella molto simile, che aveva pure a che fare con un bambino e un qualche residuato vegetale, io ricordo davvero l'ho incontrata 40 anni fa sul mio libro di lettura di tedesco della seconda media. Lì c'era anche qualcuno che osservava e che profetizzava al bravo giovane un grande avvenire, o addirittura che interveniva offrendogli una pingue borsa di studio, ma forse mi confondo con l'apologo del giovanotto che andava a chiedere lavoro e il futuro principale lo vide dalla finestra mentre attraversava il cortile e si chinava per raccogliere da terra uno spillo e se lo appuntava con cura sotto il bavero della giacca, per cui divinò in lui doti egregie di ordine e di economia e lo assunse, anche se a differenza degli altri postulati non era raccomandato da nessuno. Non dubito che anche Albertini, quando prima di essere eletto sindaco gestiva una propria industria, si servisse di metodi analoghi per selezionare i suoi collaboratori. Sia quel che sia, il senso generale della storia del bambino della banana mi sembra abbastanza evidente. Se Milano è sporca la travia, la colpa è eminentemente nostra, che non abbiamo ancora interiorizzato il senso civico necessario per tenerla pulita. Al nord sì che sono bravi. È un argomento non privo di un suo valore politico, perché potrà per esempio giovare all'avvicinamento del polo con Bossi, che anche lui, pur da un diverso punto di vista, misura il livello di civiltà con la latitudine, e chissà, potrà anche corrispondere a una qualche verità effettuale. Solo che, provenendo da chi, tra le sue responsabilità istituzionali, ha anche quella di tenere pulita la città, fa un poco impressione. Fa pensare a uno che mette le mani avanti. Sì, questa nostra città fa schifo, dice Albertini, ma che ci posso fare io con dei cittadini come voi? Su via, signor sindaco, queste cose non si dicono. E d'altronde, che quanto a senso civico la nostra città un poco scarseggi, lo sappiamo già da soli. Senso civico vuol dire solidarietà, vuol dire mettere gli interessi comuni prima dei propri, vuol dire impegno collettivo in nome di un progetto che trascenda gli egoismi individuali e di classe, e crede proprio, caro Albertini, che se Milano fosse dotata di senso civico avrebbe eletto sindaco uno come lei?